tramonterà, tramonterà, tramonterà. Chissà quando ritornerà. Ma ancor di più è la viola, la tua mogliettina sarà una campagnola. E la Mariana la va in campagna quando il sole tramonterà, tramonterà, tramonterà. Chissà quando ritornerà. In campagna quando il sole tramonterà, tramonterà, tramonterà. Chissà quando ritornerà. In campagna quando il sole tramonterà, tramonterà, tramonterà. Chissà quando ritornerà. L'amore si fa con tutte le ragazze, ma state attenti a quelle un poco pazze. E la va in campagna